Vendo tutto di Matteo Caccia. Quando realizzi un tuo desiderio è un po' come se una parte di te fiorisse. È come se finalmente potessi vedere con i tuoi occhi quello che avevi tenuto nascosto per un sacco di tempo. Sabato mi sono lanciato da 4.000 metri e quello che dovevo vedere, secondo me, l'ho visto. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so, succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela, la vendita è aperta. Oggi vendo un tavolo di cristallo. Pronto? Titi, sono Matteo. Ciao. Ciao, ti disturbo? No, sono in ufficio, dimmi. Senti, sono una roba, volevo capire perché mi serve per la puntata di oggi. Voi esattamente, cioè, da quando avete trovato la casa a quando ci siete entrati, quanto è passato? 3 anni e mezzo. Secondo te la casa quando sarà finita con l'arredamento, tutto pronto? La casa sarà finita per settembre, tutto l'arredamento. No, mamma, aspetta, dunque no. Allora, Madi ce li sta facendo, il nostro amico falegname. Potrebbe essere pronto per il matrimonio. Cioè per luglio? Sì. Poi c'è fuori anche. Il fuori adesso dovrebbero partire tra una decina di giorni, proprio perché per il matrimonio volevamo avere la facciata fatta. Giusto. Boh, Tiz, scusami, dai, ti lascio andare che vado in studio allora. Volevo solo capire questa roba dei tempi. Ascolto. Ti mando un bacio. Ascolto. Ciao Titti. Ciao bello, ciao, ciao, grazie, ciao. Lei è quella donna meravigliosa di mia sorella Tiziana, che ringrazio per essersi prestata inconsapevolmente ovviamente a questa roba. Spero che non si arrabbi se ho mandato in onda una telefonata che abbiamo fatto fuori onda, perché oggi è di questo che parliamo. 800 24 00 24, 349 238 6666. Se state entrando in casa vostra, se la state preparando, se l'avete comprata e la state sistemando, voglio sapere esattamente come siete messi, da quanto tempo ci state lavorando, quanto non ce la fate più e quando è previsto che entriate. 800 24 00 24, 349 238 6666. Perché alla fine mia sorella ha detto 3 anni e mezzo, però poi mi ha detto sì, ma pronta quando viene? Bah, verso settembre, quindi fanno 4 anni. 800 24 00 24. Si parla di progettualità oggi a Vendo Tutto. Oggi vendo un tavolo di cristallo che è stato il primo oggetto che è entrato in casa mia quando ci sono entrato, perché io ho questo piccolo problema con la progettualità, effettivamente, che se una roba diventa troppo lunga quasi mi dimentico perché ho cominciato a farla, quindi ho bisogno di... Pronti via, la faccio subito. Quindi sono entrato in casa mia praticamente 2 giorni dopo che avevo fatto che l'avevo presa, e quindi la casa era deserta. Quindi il tavolo che vendo oggi è il primo oggetto che è entrato in casa mia. È un oggetto importante, si sale con il calibro degli oggetti che si vendono. 800 24 00 24, oppure 349 238 6666. Non dico che ci stiate mettendo 4 anni come mia sorella e Lele, ma secondo me là fuori c'è qualche uomo, qualche donna. Però le donne, vi assicuro che se avessi chiamato il fidanzato di mia sorella avrebbe accusato molto di più. Le donne reggono maggiormente il colpo. Sono gli uomini che improvvisamente, da fare un lavoro tipo, che so io, i consulenti di qualcosa, si trovano a sapere tutto sul grass porcellanato, ad esempio. Oppure a sapere qual è il parquet in noce rispetto al parquet in faggio, quali sono i vantaggi, perché, per come, cose che uno nella sua vita probabilmente non avrebbe mai voluto sapere. 800 24 00 24. Storia di case in costruzione. Quelli che ti dicono: ma guarda, ormai manca poco, ormai manca poco, mancano un paio di cose, sì, sanitari, poi chiaramente bisogna mettere gli infissi, ma gli infissi li devi mettere prima. 800 24 00 24, 349 238 6666. Veniamo invece all'oggetto che vendo oggi, che è appunto il primo oggetto che è entrato in casa mia. Era un tavolo di cristallo. No, aspetta, perché? Prima leggo anche un paio di cose che sono arrivate su Facebook. Antonella: dunque, io ci ho messo 8 mesi tra pratica... Mazza, 8 mesi, tra praticamente raderla al suolo e rimetterla in piedi, circa 2 anni per proseguire l'opera di arredamento e 2 mesi per andarmene via. Raffaele invece mi scrive: mi sono trasferito da 6 anni e mia mamma continua a dire: quando poi finiamo la casa ci mancano sempre delle cose, ma ormai siamo abituati. 800 24 00 24. Veniamo al tavolo, però, per vederlo è bellissimo il sito radio24.it per sentire la sua storia. Eccoci qui. Il tavolo. Tavolo in acciaio con piano in vetro temprato, struttura in acciaio di colore nero con ripiano per riviste a griglia. Disegno semplice e pulito. Dimensioni: lunghezza centimetri 150, larghezza centimetri 78, altezza centimetri 75. Ottimo per chi non ama mangiare sul pavimento o ha voglia di vedersi le gambe mentre mangia. Valore commerciale 160 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. In questo stesso periodo in cui io sto smantellando una casa per ripartire da capo, mia sorella ne sta costruendo una per continuare la sua vita. Dopo anni di convivenza, lei e il suo fidanzato a luglio si sposano. Ma attenzione, perché non è questo l'evento dell'anno in Casa Caccia. Quello che ha scosso le coscienze e eccitato tutti gli animi in famiglia è stato il completamento della loro nuova casa. Dunque, circa 3 anni fa, ormai direi 3 anni e mezzo, Tiziana ed Emanuele hanno deciso che volevano una casa grande, con un giardino, con una bella vista. Loro vivono vicino al lago e quindi si sono messi a cercare quello che faceva per loro. Ci hanno impiegato un po'. Hanno visto e scartato decine di case. E a tutti sembrava un po' strano che il tempo passasse e non trovassero uno straccio di casa che andasse bene. In famiglia si cominciava a temere che i loro gusti fossero troppo difficili, che di questo passo sarebbero finiti a vivere in una roulotte. Sogniamo a questo il fatto che lei è un architetto e lui è un agente immobiliare, il tutto assumeva i contorni di uno sketch da film di Carlo Verdone. Poi però un giorno mia sorella Tiziana mi ha chiamato e mi ha detto: l'abbiamo trovata. La loro casa è una casa nascosta, non è visibile dalla strada. Si trova in un paesino sopra il Lago Maggiore, addossata ad una collina. Dal cancello d'ingresso si prende una stradina S, in mezzo al giardino, e in fondo appare la casa. Bassa e lunga, in cemento e vetro. Dietro di lei, in fondo, il lago. Quando ci sono stato per la prima volta sembrava una casa uscita da un manuale d'architettura. Costruita negli anni 60 da qualche estroso disegnatore, e poi rimasta in quell'epoca, rimasta là, però con tutti i segni che 40 anni di vita lasciano su una casa. L'hanno ripulita e ricostruita. Mia sorella l'ha progettata da zero. Emanuele ha trovato un'impresa, poi un'altra e poi un'altra ancora. Hanno scavato, abbattuto, alzato e recuperato. Ci hanno messo 3 anni e mezzo. Si sono scoraggiati e sono arrivati sul punto di mollare, ma alla fine ce l'hanno fatta. Ora vivono in un posto magnifico. Cucinano davanti ad una vetrata che dà su piante secolari e si svegliano di fronte al lago. La casa è inondata di luce e ha tante di quelle diavolerie tecnologiche che sembra di stare in un film di James Bond. 3 anni e mezzo. 3 anni e mezzo però sono tanti. In 3 anni e mezzo ci si fidanza, ci si lascia, si hanno figli, si cambia lavoro, si va in vacanza 4-5 volte, magari si cambia casa, pure città. È stato un calvario durante il quale in famiglia tutti hanno detto la loro, ovviamente. Stanno sbagliando, dovevano comprare una casa già a posto, non se la godranno mai. Insomma, tutte quelle cose che si dicono quando in famiglia si sente l'esigenza di dire qualcosa. Un mese fa poi ho dato loro una mano a finire il trasloco. E quando alla fine ci siamo seduti sul divano, con le vetrate tutte intorno, ho capito che avevano ragione loro. Quando ho comprato casa ci sono entrato la sera stessa. Ho questo problema con i tempi lunghi. Se ci impiego troppo a finire una cosa, perdo il senso di quello che sto facendo. Cioè, quando inizio qualcosa provo una sorta di trance che mi convince che quello che sto facendo non è solo giusto, no, quello che sto facendo è l'unica cosa giusta da fare nella vita. Questo vale per tutto, per progetti di lavoro, di vita, ma anche solo per una partita di calcetto. Temo che abbia a che fare con la fissazione infantile del tutto e subito. Voglio questa cosa, la voglio qui, la voglio ora. Quindi pensare di aspettare 3 anni e mezzo, quasi 4, per trovare una casa, sistemarla, entrarci, mi farebbe mettere in dubbio l'utilità stessa di avere una casa. Ecco perché nella mia ci sono entrato il giorno in cui ho deciso di prenderla. Era inverno, fuori pioveva. Arrivai in Vespa sotto il palazzo facendo una strada che avevo percorso giusto un paio di volte per incontrare la gente. E ancora non mi era familiare. Infilai le mani in tasca, anche il mazzo di chiavi, per quanto informe, era diverso da quello di prima. Sbagliai un paio di volte prima di trovare quella giusta per la serratura. E poi entrai in casa. Era buia ed era vuota. Ma era casa mia. Fatta eccezione per la maschera africana che ho venduto un paio di settimane fa, lo spazio era completamente libero. Mi ero procurato un materasso da un amico, l'acqua c'era, il bagno funzionava e non mi serviva altro. Ho vissuto così per un mese. Di giorno facevo le cose che avevo sempre fatto, poi tornavo a casa, casa mia, ed era una specie di tana. Non mi andava di riempirla di mobili comprati tutti in una volta sola. Ho sempre pensato che l'arredamento di una casa si costruisca con il tempo, sentendo lo spazio vuoto intorno a sé, cercando di capire dove può andare cosa, quale tipo di mobili in un angolo piuttosto che contro una parete. Dormivo col materasso sul pavimento, guardavo la TV stando sul pavimento e mangiavo seduto sul pavimento. Dopo un mese realizzai che mi serviva un tavolo e qualche sedia. Lo realizzai non perché fossi stufo di mangiare per terra, ma perché quando per la prima volta invitai degli amici a cena e li costrinsi a mangiare come dei giapponesi a gambe incrociate, uno di loro mi disse che forse un tavolo in casa non avrebbe proprio fatto schifo e che una sua amica stava vendendo i mobili di casa sua. Mi diede il numero e la chiamai. Lei fu molto gentile. Mi disse che si stava liberando di alcuni mobili dopo la fine di una relazione. Devo dire, questa cosa di liberarsi degli oggetti appartenuta a una storia d'amore finita mi incuriosì. Le chiesi se per caso avevo un tavolo e delle sedie. Lei mi rispose di sì, che c'era un tavolo in cristallo con 6 sedie e che avrei potuto prendermi tutto quando volevo. Subito, le dissi io. Prendemmo l'appuntamento per la mattina dopo alle 9 in piazza Cadorna. Ecco, domani vi racconto com'è andato, com'è andato l'incontro e come mi sono portato a casa tavolo e sedie. Per il momento mi limito a far partire l'asta di oggi. Il tavolo in cristallo vale 160 euro, la base d'asta sono 99 centesimi. Se siete dietro, come si dice dalle mie parti, se siete dietro a costruire casa, a tirarlo su e andarci a vivere, 80024-0024. Entrata in casa un anno fa, dei 3 piani e nelle 4 camere abbiamo solo un letto, un comodino, un armadio e la cucina, neanche il televisore, ovviamente né tende né lampadari. Ciao, Carlo da Modena. 4 mesi per identificare la tazza del cesso ed altri accessori sanitari in tinta. Trovate qualcuno capace di fare meglio. 349-238-6666. Ancora c'è qualcuno che invece la casa ancora non ce l'ha perché è da 2 anni che sto cercando di farmi deliberare il mutuo. Il bagno la fa da padrone. Tutto il bagno di casa è stato progettato sul porta cartigenica. Marco Dall'Andriano. 800240024. Tempi e modi per prepararsi il nido, cioè casa propria. Francesco da Napoli. Pronto Francesco? Ciao. Ciao, buongiorno, come stai? Tutto bene. Senti, a parte la casa tutto bene. A parte la casa, veniamo al dunque, quindi sta casa, Francesco. Ma cosa ti è venuto in mente? Ma non lo so, guarda, è una follia. È iniziato a marzo 2003, io e mia moglie non eravamo sposati, eravamo fidanzati, volevamo fare casa, quindi sì. È nato come un sogno, è diventata un'ossessione. Abbiamo cominciato a costruirla, prima il progetto del comune, poi il comune, poi abbiamo fatto la casa, poi sono gli addetti del comune. Ma, detto Francesco, questo andava bene. Scusami, so che tu chiaramente questa storia l'avrai raccontata migliaia di volte, ce l'avrai in testa, però per capire, è una casa che voi costruite da zero oppure... Allora, la casa era nata come un sogno perché mio nonno mi ha regalato un terreno, dicendo che lui, il suo sogno era quello di farsi una casa in questo terreno. E allora io ho preso, siccome vivo di sogni anche degli altri, ho preso la palla al balzo, ho detto perché non facciamo casa qui? Sì. E quindi abbiamo incominciato a progettarla. Proprio noi, progettarla io e mia moglie. Quindi da zero, sul terreno proprio? Sul terreno. C'era un prato, prima, cosa c'era? Esatto. C'era un prato, c'erano degli alberi di noce. Che purtroppo mi avete dispiaciuto anche a battere. Potevi farci il parquet, Francesco. Vabbè. Esatto. E adesso, a che punto siamo adesso? Nel 2010, quindi a 7 anni di distanza. Allora, siamo un'ora fa, ho chiamato l'architetto e mi ha detto che il comune ha trovato un altro problema. Quindi adesso questo dicevo nella mia testa, che se la potessi radere al suolo e andare a vivere una tenda. Ma adesso... La cosa allegra, simpatica, che ci pensavo adesso in macchina sto andando al lavoro, sì, è che questa casa, la progettualità va bene, ma non bisogna far sì che poi questi progetti condizionano tutto il resto della tua vita. Se no diventa un'ossessione, come la differenza tra Inter e Barcellona, diciamo. Esatto. Senti, praticamente alla fine mi ha condizionato il posto di lavoro, perché aveva bisogno di soldi, E quindi praticamente ho scelto il lavoro e non in base a quello che diciamo è il posto che mi piaceva ma di quello più, che ti dava più guarda. Soldi. Senti Francesco, scusami per chiudere perché potremmo stare qui 7 anni giustamente a parlarne. Quando viene pronta sta casa? Un anno, due anni? Lo sa, lo saprà il padre eterno forse. Francesco, io spero di andarci a vivere presto, ma voglio dire penso non meno di 6 mesi. Batti un colpo quando ci vai Francesco. Un sogno. Ciao, buona giornata, ciao, grazie. Ciao. Andiamo a provincia di Monza, Barbara. Francesco era a pezzi. Pronto, Barbara? Ciao, come stai? Bene, grazie, io bene. Tu sei un po' più su di morale di Francesco. Sì. Com'è andata? Adesso sì, perché è nata come una tragedia e invece si è tutto risolto per il meglio. Cioè? Cioè che noi da un giorno all'altro abbiamo dovuto decidere di lasciare la nostra casa, che era nostra, che ce l'avevamo fatti noi, io e il mio attuale marito, insomma. Cioè, ma anche voi costruita? No, costruita no, però rimessa a posto, dovuto fare dei lavori molto grossi, eccetera. Ma da un giorno all'altro, per motivi, vabbè, tristi e così, abbiamo dovuto decidere di andarcene. E quindi? E quindi a questo a giugno. A luglio abbiamo cominciato a cercare casa. Sì. Per agosto avevamo fatto il compromesso, diciamo, uh-huh. E abbiamo chiesto il mutuo. Intanto all'inizio di agosto abbiamo deciso di sposarci, perché abbiamo detto vabbè. Certo, già punto. Che ci siamo, facciamo tutto. Facciamo Senti tutto, Barbara, però. Andiamo alla conclusione, insomma, qua... ottobre ci siamo sposati, poi abbiamo fatto la via, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, abbiamo dovuto ristrutturare una casa di 140 metri quadrati in cui non si poteva neanche entrare, c'era neanche il pavimento. E siamo entrati ad aprile. Quindi Barbara, il consiglio che ne potrai trarre per tutti quelli che sono all'ascolto, bisogna prendere le cose di petto e andare avanti come un rullo compressore e fare tutto, figli, matrimonio, casa, tuo lavoro, tutto insieme. Possibilmente architetti, geometri, solamente per fare le cose in comune, tutto il resto parlare bene. Con il muratore, far fare tutto lui, che se lo trovi bravo ti risolve tutti i problemi. Grazie Barbara, grazie adesso mille. Adesso ci stiamo costruendo la scala interna. Poi facciamo così, poi gli step futuri me ne racconti un'altra volta. Ciao Barbara, okay, grazie. Ciao. Al volo prendiamo ancora prima Beppe da Venezia. Pronto Beppe? Sì, pronto. Ciao, buongiorno, come stai? Non c'è male. Raccontami la tua storia che mi sembra abbastanza interessante. Si parla del 15 gennaio 1980. Io e mio fratello abbiamo comprato un terreno nel 15 gennaio 80, cioè l'atto notarile. Okay. Poi quell'anno stesso abbiamo fatto il progetto e abbiamo cominciato a costruire da noi. Abbiamo portata fino al primo piano, poi il primo piano non avendo la gru, abbiamo dato in mano a un'impresa, ce l'ha portata al tetto e poi ha cominciato a finirla noi internamente da soli. Proprio con le vostre mani, ok. Però dico una cosa, premetto che i miei fratelli fanno i muratori, io no. Ah, ok. Senti, ci siete entrati quando, Beppe, alla fine? Io sono entrato a dicembre e mio fratello che si è sposato poi... che è una abbinata, si è sposato nel 92, dicembre 26 aprile 92, praticamente 3 mesi dopo di me. Insomma, quindi 12 anni più o meno. Grazie mille Beppe, buona giornata. Grazie, ciao. Ciao, alla prossima, grazie. Al volo Alberto da Como, pronto Alberto? Pronto, ciao. Ciao, buongiorno, senti purtroppo ho poco tempo. Ho comprato casa verso maggio dell'anno scorso, sì. Quindi relativamente sì. Insomma, recente. Sì. L'unica cosa che mi è saltata in mente, dato che è un appartamento nuovissimo, di fare il cappotto interno, praticamente, sai, l'onda ecologista. E mi sono messo il cappotto interno per il calore e il freddo, giusto? Sì, per tenere... sì, ok, ok, ok. Commercialista e ho comprato il sughero, l'ho tagliato. Ok, insomma, hai prodotto tutto? Malta, insomma, morale? Ho fatto tutto io. E niente, mi è passata la voglia di entrare. Grazie, andare a viverci. Alberto, grazie anche a te. Buona giornata. Grazie a voi. Ciao, alla prossima. Io adoro gli SMS fuori luogo comunque. Tu sei di Novara, andavi a vedere l'hockey? Vabbè. Ma un bel prefabbricato, 2 mesi e fatto tutto, grazie a tutti. Grazie a Laura Fagiti, Zeno Bonini, Genovesi e Paolino Corleoni. Il tavolo è sul sito come al solito, domani vendo le 6 sedie che vengono via con il tavolo. Se volete farvi una casa, ragazzi, fatevela subito, che alla fine una casa è sempre una casa.